La bilancia strutturale è un modello che serve a creare un po' di facilità nel comprendere cosa ci succede dentro. Un modello molto facile, molto semplice, che ha come scopo aumentare la nostra consapevolezza. Come diceva Einstein, il pensiero non deve essere troppo semplice, deve essere semplice, ma non troppo semplice. Quindi usiamo la soglia di Occam, togliamo tutto quello che non serve, ma non più di quello che serve. Ecco, allora questi elementi che vedrete sono il minimo indispensabile per capire come funzioniamo. Allora presento questo modello, rappresenta la modalità delle costellazioni. Mettiamo qui, qui l'io, qui le parti del partito della depressione, qua le parti del partito più del narcisismo, e qui l'io governo che sta in mezzo e cerca disperatamente di tenere le fila. Qui cosa abbiamo? Qui abbiamo l'anima. Cos'è l'anima? Attualmente io non lo so, diamo una descrizione che ci è utile per il nostro lavoro, non è che c'è l'enciclopedia che ti dice cos'è l'anima, cioè, ci sono varie opinioni. Devo dire cos'è per noi anima. L'anima è la parte di noi, la configurazione interna, configurazione, cioè quel modo di funzionare della nostra mente, che tende a collegarsi con tutto ciò che c'è. Quindi, per capirci, l'anima è questa forza interiore, questo punto di vista che tende a vedere i collegamenti e le connessioni. Se io sono qua, sono collegato con mio padre, mia madre, mio nonno, così, sono collegato. E non solo con la mia famiglia, ma con altri esseri umani, e non solo con gli altri esseri umani, ma anche con gli animali, anche con le piante, perché se non ci fossero le piante, potrei essere forse vivo? No. E anche con i minerali, perché se non ci fossero i minerali, potrebbero esserci le piante? No. Quindi, secondo le tradizioni sapienziali, non duali, tutto è interconnesso, tutto è collegato, non ci può essere questo senza quell'altro. Possiamo chiamare questo fenomeno Ubuntu, usando una parola che viene dalla tradizione africana. Un albero c'è in quel modo perché ci sono i leoni ci possono essere perché ci sono le giraffe. Tutto è interconnesso. In altre tradizioni prende altri nomi, Advaita, non dualità. La nostra tradizione religiosa è la coscienza cristica che ci fa comprendere che siamo parte di qualcosa di più grande. Così. Questo quindi l'anima è quella parte di te, di me, di Carolina, di Antonella, che tende a creare queste connessioni, si sente connessa. E quindi l'anima è l'espressione dello spirito dentro di noi. Ma l'anima non governa la personalità. La personalità è governata dall'io. Governa questo. E l'io si forma a partire dall'infanzia, attraverso il modellamento di genitori, l'identificazione. Fino a che a un certo punto costruiamo la nostra identità provvisoria. Siamo quella roba. Con nostre idee, convinzioni, visioni del mondo. L'io però non è l'unica forza dentro di noi, assolutamente no. Perché l'io deve tenere a bada regolarmente due altre forze. Una è una forza che tende a implodere, perché di fronte cosa succede? Che l'io si forma anche attraverso la frustrazione, lo scontro con le ferite, tradimenti, le umiliazioni, gli abbandoni, i rifiuti. Sono tutte quelle esperienze che nella vita facciamo e via via che superiamo queste esperienze il nostro io si rinforza. Cioè, Se sappiamo superare la nostra ferita d'abbandono e non siamo un giorno a piangere su quella, vuol dire che abbiamo costruito un io in grado di gestire la nostra abilità anche più da adulto. Ma non significa che allora dentro di noi non ci siano delle parti che l'hanno superata. Le parti depresse facilmente vivono ancora quelle situazioni. Sono stato abbandonato da mia mamma da piccolo periodo perché è andata in ospedale, c'è venuta una zia che non era proprio di mio gradimento. Ho vissuto quel periodo come abbandono, come tradimento, una parte di me ha provato emozioni molto forti, pian piano ho imparato a superarle, nel senso che la vita non mi faccio guidare solo da queste, però possono accadere degli eventi esterni, un evento esterno alla mia persona, uno stimolo, per esempio una relazione d'amore, il partner mi molla, io provo una sofferenza dal punto di vista dell'io, sì, perdo una persona che amavo e quindi c'è una sofferenza, però se in conseguenza di questo abbandono io perdo proprio il lume della ragione, divento, piango tutto il giorno, mi ritiro, non so più vivere, cioè non posso più lavorare, beh, allora cosa significa? Che questo trigger, quello che è successo, ha risvegliato la mia parte depressa, la quale cosa fa? Riesce ad andare al governo. E quindi la mia vita, in quel momento, è guidata da quella parte. La parte che cosa vuole? Vuole qualcuno che l'ama incondizionatamente, non gli interessa niente delle ragioni dell'altro. E cioè, da questa parte qui, vediamo che a 6 mesi, 1 anno, 2 anni, e reagire così. Qual è il compito di Dio? È imparare a far crescere questa parte. Pian pianino, comportarsi in modo tale da integrarla dentro di sé. Ma come? Allora, se questa parte ha subito un abbandono da piccolo, facilmente l'io interiorizza la figura della madre e si comporta con questa parte interna nello stesso modo. Quindi se ho ricevuto abbandono, io, da adulto, cosa pratico nei confronti della mia parte bambina abbandonata? Abbandono. Ecco quindi che questa parte continua la sua sofferenza, che non è solo legata al rapporto con mia madre, ormai è legata al rapporto con me. Se mia madre non mi ha visto per certi lati, io non mi vedo. Quindi quello che ho ricevuto io restituisco a chi? A questo. Quando poi avviene un fenomeno fatto esterno alla mia struttura che richiama quegli eventi, questo parte, cosa fa? Aggredisce, va indietro nel tempo a quei sentimenti di allora e li riporta qui. E se l'io non è abbastanza solido, occupa l'io e l'io si comporta come se avesse 2 anni. E questo lo vedete spesso nelle persone. Questa è la parte depressa. Ora, se ci fosse stata solo la parte depressa, quella che poi alla fine o ha l'amore o si vuole far fuori, vuole morire, l'energia vitale dove sarebbe finita? Implosione. La persona, il bambino avrebbe continuato a piangere, sta dentro di sé, sarebbe morto. Ma dentro il bambino c'è un'altra forza. Il corpo energetico si chiama sé inferiore, cioè la parte che anziché provare tristezza, in conseguenza dell'abbandono, cosa prova? Rabbia. E se tu mi hai abbandonato, io ti punirò. Questa parte, per comodità, senza la chiamiamo parte narcisistica, la parte che prende l'energia vitale, la scaraventa fuori di sé, cioè mentre questa si autoaggredisce, la parte narcisista dice adesso aggredisco io. Benissimo. Quindi questo modello che chiamiamo anche bilancia strutturale, vedete che c'è un centro più o meno si è formato, questo io che ragiona da adulto, dice vabbè mi ha abbandonato questa persona, ma non è che muoio, sì, sono triste, però Però questo io governo non ha a che fare solo con degli adulti, ha a che fare con dei bambini che in quei momenti vengono fuori e soprattutto lui non sa come trattare, perché non l'ha mai imparato. Quindi con la parte depressa cosa fa? Lì a un certo punto si arrabbia, ma dice guarda un po' come mi comporto io, cioè utilizza la sua parte narcisista. Allora, siccome la struttura della personalità, se fosse stata lasciata in balia della parte depressiva, sarebbe morta, ecco che la parte narcisistica, che è un po' successiva come tempo, questa qui, che ha imparato a esternalizzare sugli altri anziché internalizzare, questa parte narcisista acquista voti nella personalità. Ecco, immaginiamo che voi siete la personalità, tutte le parti interne, varie parti interne, e tra quella là che vi porta a morire, questa qua che vi porta a fare la guerra agli altri, preferite questa, e quindi è a questa che date i voti. Okay? Immaginate la Germania dopo il trattato di Versailles. Era in ginocchio, non aveva dei debiti di guerra mostruosi da pagare. C'era quindi un risentimento da parte del popolo tedesco. Il rischio era finire dalla depressione. Ecco che esce fuori un partito, che è poi un uomo, Hitler, che dà la possibilità ai tedeschi di dar colpa a quelli là sono i bastardi, che comincia a parlare con gli ebrei, di questi, e trova un capo espiatorio. Trovando un capo espiatorio, la parte depressiva, basta, non agisce più. Quindi, cosa succede? Che loro, che hanno visto com'è vivere con la parte depressa, con la parte narcisista che esternalizza, dicono, oh, cavolo, meglio questo, meglio il nazismo che vorrei di fare. Però è proprio in grosso sopra. Allora, noi come governo interno siamo a rischio di depressione o di nazifascismo. In base a cosa? In base alla politica che facciamo. Se abbiamo una buona politica economica, sociale, di rispetto di noi stessi, pian pianino queste parti si integrano e si mettono in quieta. E quindi la persona non si fa più prendere né dalla depressione, ha bisogno di attaccare gli altri in modo paranoico. Altrimenti, se io governo non è abbastanza cresciuto, è piuttosto ancora incompetente, cosa succede? Che la personalità va in balia o di questa o di questa. Se va in balia più di questa abbiamo una struttura neurotica, se abbiamo più balia di questa abbiamo una struttura, un disturbo del carattere. Questo proprio grossissimo. Il problema qual è? Che quando dico io, ma chi io, chi sono? Sono loro, cioè il popolo che subisce la politica al governo, sono il mio governo, sono la mia parte narcisista, il mio Hitler interno, sono la mia parte che vuole morire, oppure sono la mia anima.